Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar, siamo qui alle 8:20 minuti. Alle 8:20 minuti, diretta fino alle 9:30. Caro Alessandro, questo 16 settembre, San Giovanni Crisostomo. Quando ero piccolino mi sembrava sempre un nome che non capivo cosa vuol dire. Poi uno studia il greco, servosi al greco, io difendo il classico, anche se ci sono economisti che lo vogliono abolire, ci faccio una risata in faccia. Invece Crisostomo vuol dire dalla bocca d'oro, perché appunto è un padre della chiesa che parlava in questa maniera così strepitosa, per cui rimanevano tutti incantati tra gli altri santi. E quindi auguri a chi si chiama Amato Giuliano e Litorio di Lourdes, con una T, appunto, no, una T. Sembrava un difetto di pronuncia, invece una è Litorio. E Venerio, che non è il santo di certe malattie, quindi no, non scherzate con queste cose, che ci sono i parroci che si innamorano, ma cuore e non altro, ecco. Devo dirvi oggi, in questo giorno, nel 1922, vedi che la storia si ripete, vennero massacrati dai kemalisti in Turchia tutti gli abitanti greci di Smirna, decine di migliaia di vittime, e più di un milione di greci abbandonarono la Turchia. Per capirci che nel Mediterraneo corsi e ricorsi, tendiamo a dimenticarcele queste cose, però era così. La storia è fatta così, poi di corsi e ricorsi. Buon compleanno ad Arturo Parisi, che compie gli anni oggi. Arturo, a me è sempre stato simpatico, io lo stimo molto. Ex ministro della difesa, ex annunziatella, e a Cristiana Capotondi, che mi sta simpatica, ma per altre ragioni. Ma più simpatica? Cristiana Capotondi, io Arturo distingo Parisi. La simpatia, no, poi di Cristiana Capotondi non potrei dire nulla, perché sta con Andrea Pezzi, che è un mio carissimo amico da anni. Non si può dire nulla, se non che sono un suo ammiratore. Va bene. Allora, caro Oscar, cari ascoltatori, intanto il numero per intervenire 800 24 0024, come detto andremo avanti fino alle 9:30. Certamente parleremo tra poco di rifugiati. Ieri c'erano Toti, che avremo ospite, insieme a due governatori leghisti, si sono incontrati e hanno lanciato delle proposte. Perché per un secondo capisci la tua consecuzio. Sì. Parleremo dei rifugiati, Toti. No! Ho detto, ops, mi è sfuggito qualcosa. No, ma dai. E sarà con noi anche Matteo Ricci, che è vicepresidente nazionale del PD, insomma al tema degli immigrati. Sì. Ma poi ci concentreremo su questa storia, caro Oscar, che insomma, anche solo a raccontare fa dolore, no? Questa dolore storia che, brividi. Arriva da Melito di Porto Salvo, siamo in provincia di Reggio Calabria. In estrema sintesi, ma poi chissà quante mille sfaccettature ci sono, una ragazzina di 13 anni abusata per 3 anni, stuprata da un gruppo di persone di Melito. Ora si è venuto a sapere anche che la madre sapeva in qualche modo, perché in un tema questa ragazza a un certo punto ha raccontato tutto questo, ma anche la madre non si sa se per vergogna o per altri motivi comunque non ha denunciato tutto questo. La vicenda è venuta fuori, sono stati arrestati i colpevoli, ma è uno spaccato incredibile. Sono stati arrestati per delle indagini in cui cooperano, da merito da quello che sembra, dai verbali che abbiamo letto, più chi è estraneo al giro che gli stessi familiari. Il padre dichiara ai carabinieri di aver visto tra le gambe della figlia, di aver notato delle cose che la figlia si infliggeva per autolesionismo. Perdete, il padre, ecco. Insomma, questo è il contesto. No, tra l'altro mi ha molto colpito oggi Linda Laura Sabbadini, che ha un lungo trascorso all'Istat, snocciola delle cifre impressionanti. Senti questa. Sulla stampa. Sulla stampa. Secondo l'Istat, le ragazzine prima dei 16 anni, 2.284.000 ragazzine prima dei 16 anni, 2.284.000, hanno subito violenze sessuali di vario tipo, o in alcuni casi palpeggiamenti, in alcuni casi vera e propria violenza sessuale completa. 2.284.000, questa è una cifra impressionante. Di queste quasi 200.000 violenze gravi come lo stupro, quasi 200.000. Esatto. No, perché prima di entrare in onda tu avevi anche su questa madre, della quale io non voglio dare un giudizio, racconto quello che raccontano i giornali dicono la madre sapeva, a un certo punto ha saputo, ma per vergogna, così avrebbe detto ai carabinieri, per il contesto in cui, per non portare disonore alla famiglia, ha taciuto. E ha deciso di non denunciare, evidentemente, sì, queste violenze. Io devo dire la verità, almeno io mi permetto di giudicare, chi siamo noi, però quello che mi colpisce di fronte a queste vicende, come mi colpì di fronte agli abusi che avvenivano nel palazzo, nell'interno napoletano e così, sì, via, è che ogni volta noi ci strappiamo le vesti, perché lo dico, è ovvio che ce le strappiamo per l'orrore che ci suscitano queste vicende. Io sto parlando dello stupore, di questo cadere dal pero. Cioè noi preferiamo vivere in una realtà che ci dipingiamo come se in alcune parti d'Italia, e non, guardate, non c'entra la questione antropologica, non so, sentite bene quello che dico, in alcune aree molto più estese di quanto amiamo pensare d'Italia, esiste ancora una fortissima presa di cultura ferocemente e violentemente fatta di soggezione sessuale, uno contro le donne, B, e di invalicabili muri di vergogna, per cui si tace sulle violenze ai figli e sugli incesti, per essere chiari, uso la parola brutale, però è così, si tace sulle violenze ai propri figli. Allora, questa roba qui è in un'area più estesa di quanto noi immaginiamo, ed è inutile cadere dal pero ogni volta. Quindi io ieri concludo all'idea possibile, ma che una madre possa decidere di tacere per non perdere la faccia, mi sono sforzato di capire perché, e da padre, da madre, parlando con mia moglie, non si può immaginare, saremmo in presenza di un mostro, una madre indifferente, no? Alle violenze alla figlia. E allora bisogna capire che anche questa signora, che non mi permetto di giudicare, è vissuta in un mondo nel quale tacere era l'unica strada possibile, e questo è ancora un pezzo molto più ampio dell'Italia di quanto noi vogliamo ammettere. Cari signori maschi in ascolto, perché il problema poi riguarda fondamentalmente noi, senza generalizzare, però quella è una cultura fatta di prevaricazione maschile. Questo per dire, Oscar, che è facile magari puntare il dito su questa madre e dire non ha denunciato. Mostro perché sia lei. È chiaro, uno gli viene come reazione, però bisogna sforzarsi di capire che lei è la prima vittima di un contesto di questo tipo, la prima è sua figlia, ma voglio dire, nel tacere, cioè nel buttare giù la violenza, o pensate che sia indifferente? Io non ci riesco a credere che è indifferente, come altro, ovvio, no? Tra l'altro Linda Laura Sabbadini, in questo appunto bel editoriale sulla Stampa, racconta che ci sono proprio delle donne, ne fa i nomi a Melito, che si impegnano invece per rompere questo silenzio, che si impegnano per cercare di contrastare questo fenomeno. Posso dire una cosa che ho accomunato ieri, e che tra l'altro secondo me la Stampa fa bene a accomunare oggi, perché la Stampa oggi finalmente dedica due pagine al fenomeno di quello che avviene con le baby gang a Napoli. Sì. Io me ne sono occupato giorni fa, chiedendo, ma com'è che parliamo tutti di Gomorra e di Robin Hood e giorno per giorno i giornali nazionali se ne fottono di quello che avviene a Napoli invece, che è ben più grave. E per la stessa ipocrisia noi ci rifiutiamo di riconoscere che in questo fenomeno terrificante della baby gang, che va avanti negli ultimi 3 anni, anche se nessuno frega niente tranne che a Napoli, è la cosa più simile purtroppo all'istintiva adesione che in alcuni giovanissimi hanno per il califfato. Solo che dirlo sembra dire... L'ha detto un magistrato. Ecco. Un magistrato in una sentenza ha detto che queste baby gang sono la cosa più simile è vero, al fenomeno dell'ISIS, dello Stato islamico. Noi viviamo in contesti in cui lo Stato, la legalità, il rispetto non esistono, non è che sono collassati, non si sono mai affermati. E anche questa è un'affermazione forte, me ne rendo conto, però secondo me è così. Intanto guarda, su questo tema, poi dopo la pubblicità appunto riprenderemo il tema, prima profughi immigrati e poi dalle 9 alle 9.30 ci concentreremo con il sindaco di Melito di Porto Salvo, con Giulia Bongiorno, avvocato penalista, con il coordinatore di Libera, perché Libera ha organizzato una fiaccolata, Oscar. E ci sono state, e ci poi sono state non molte presenze, no? Loro dicono che non è vero, però insomma la polemica c'è stata, che ci si aspettava, diciamo, tutto un paese stringersi attorno a questa ragazza, quindi i cronisti dicevano era più la gente che veniva da fuori che del paese, eccetera. C'è anche questo contesto che approfondiremo. Però ci chiama un'ascoltatrice, Federica da Roma. Buongiorno Federica. Buongiorno. Volevo intervenire su quanto è successo, vabbè, ovviamente sconvolgente, non tanto per quanto riguarda... a me è successa la stessa cosa, ovviamente non un tempo così duraturo, sono una vittima. Avevo 17 anni, ma ho avuto una fortuna. E una famiglia dove la cultura è sempre entrata, una scuola dove facevano informazione, mi ricordo alle superiori, venivano le ragazze di Telefono Rosa a informare, io ho una scuola di Roma, quindi tra l'altro in periferia, quindi non è che non andavo in centro. Quanta ignoranza c'è, deve partire dalla scuola, deve partire dall'unico posto dove i ragazzi sono presenti, che è la scuola, per i maschi e per le femmine, perché sì. non è colpa ovviamente delle vittime, e io vedo che, come posso dire, si respira proprio questo ambiente di ignoranza pura, per cui siamo alla vita brada. E mi dispiace perché sono ragazzine, io con mia bambina di 9 anni ovviamente ho il terrore, perché non deve capitare, però... Però può capitare. Però può capitare, sì, bisogna dare loro i mezzi per chiedere aiuto, perché non lo sanno che c'è chi può aiutare, e non si fidano magari, perché gli adulti sono mostri. Ma ecco. Sì, tra l'altro, Federica, quando lei ha detto, e ovviamente non è assolutamente colpa delle vittime, ma è una frase che fa bene lei a dire, perché in un servizio che è andato in onda c'è anche qualcuno nel paese che ha detto se l'è andata a cercare, come al solito, no, se l'è andata a cercare. La classica frase di una idiozia estrema. Di merito ci ha provato, l'ha scritto nel tema, cioè ha provato a lanciare dei segnali nelle comunità. Quando Federica dice la scuola, esatto, diciamo che attraverso la scuola, attraverso questo tema è emersa questa vicenda. Certo, lì forse, non lo so, ma forse non sono scattati tutti quei meccanismi immediati per cercare di almeno arginare, anche se purtroppo più del danno era stato fatto. Anche se poi pare di capire, il più dell'inchiesta dei carabinieri viene perché qualcuno si è fatto vivo e ha cooperato dicendo: guardate che abbiamo capito tutti quello che sta avvenendo. Ecco, quindi una parte di merito sì, evidentemente. Sì, Oscar, devo dire che Zancan sulla stampa l'ha raccontata domenica, c'è proprio anche uno spaccato incredibile. Tra le persone arrestate c'è anche il fratello di un poliziotto. Sì. Che chiamava il poliziotto e il poliziotto lo consigliava di dire: non dire niente, non nega tutto, certo, nega sempre, non la conoscevi, non è... cioè è anche uno spaccato. Vedi, quelle parole molto, però, molto... da parte di una partente delle forze dell'ordine, che cosa mi hanno indotto a pensare? Riflessione semplice, non voglio colpevolizzare. Se un appartenente alle forze dell'ordine fa prevalere la difesa della famiglia, perché in quel caso è anche in quel caso è la difesa del familiare, no? Per non essere coinvolto nelle indagini, ti dà l'idea di una legalità che non è mai arrivata, perché quella è una forma premoderna, la famiglia viene prima ed è sopra rispetto alle leggi dello Stato. Può pure fare il poliziotto, però lo fa per prendere uno stipendio, non perché ci crede. Come no? Ci scrive anche Carlo a dire: ma sicuri, guardate che tra i violentatori c'è anche il figlio di un capo cosca. È vero, è vero, e anche questo, certo, è un dato di fatto. Tra le persone arrestate c'è il figlio di una persona ai 41B, quindi di un 'ndranghetista, ma che c'entra? Cioè, nel senso, cioè c'entra per raccontare lo spaccato. Però ma... il problema è che non è che gli associati in questa banda di burloni, diciamo così, capite che sto usando termine perché me ne verrebbero degli altri, non è un fenomeno 'ndranghetista in scritto senso, cioè non erano dei malavitosi tutti, no, che si conoscevano e si frequentavano e stavano zitti paese, per quello. Ragazzi, esatto, di quindi che ci sia un 'ndranghetista è un elemento di contesto, non è un elemento decisivo, purtroppo. Comunque di questo parleremo approfonditamente dalle 9 alle 9.30, chiamateci all'800240024, mentre riannodando un po' i fili, tra poco avremo Giovanni Toti, presidente della Regione Ligure, e Matteo Ricci del PD, sindaco di Pesaro, per parlare della situazione immigrati. E vabbè, per il resto fammi solo dire, siamo in presenza del nuovo condono del governo, cari ascoltatori, ancora la una volta disclosure smentiti. La morunta di disclosure, come dico io, perché pur di far soldi, sai che è per il terremoto addirittura, perché non ci danno più il deficit in Europa, allora è per il terremoto, l'avevi capito? Sì. È per il terremoto, vedremo se è davvero per il terremoto. C'è la voluntary disclosure. Disclosure, dici tu, io chiamo la voluntary disclosure, perché sai, è chiaro che dopo aver fatto scrivere ai giornali italiani per mesi che c'erano 10 miliardi, 15 miliardi più, improvvisamente questi miliardi l'Europa non ce li dà più. E come capisci, il Presidente del Consiglio che non si dimette più. Posso dire un'ultima cosa? David Cameron, perdona, ha perso il referendum? Sì, si è dimesso. e si è dimesso anche dal Parlamento ieri, dicendo io non posso più fare politica. Che bella lezione ai premier attuale italiana che cambia idea se perde il referendum e resta, e ai tanti ex premier come D'Alema che non vanno mai a casa dopo decenni. No, viva David Cameron. Ma chi lascia la poltrona in Italia? Viva David Cameron. Non si fa mai. E poi danno lezioni agli altri, danno sempre lezioni. Certo, danno sempre lezioni. Però intanto c'è chi se ne va, se perde, no? Esatto. Ogni tanto all'estero. Noi andiamo in pubblicità, poi la poltrona è sempre questa e ci siamo, tra poco. State ascoltando un programma offerto da... Banca Mediolanum, costruite intorno a te. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Eccoci qui. Dillo se hai coraggio quello che stavi dicendo. No, adesso lo dico. Lo dico. Ma non è è un dubbio. Cioè, figurati, io di solito rido sempre su chi sostiene la teoria dei complotti. Non c'è stato l'11 settembre. Però... Ieri, siccome c'era grande polemica sui giornali americani per la salute di Hillary Clinton. Sì, la polmonite taciuta, che forse non è polmonite, ma qualche altro disturbo neurologico, dicono medici e così via. E c'è quest'altra tesi per la quale ieri, di fronte attenzione, alle immagini della Clinton, dopo che era sparita dalla cerimonia perché si era sentita male, e poi ricompare sotto la casa della figlia Chelsea, e la tesi, il complotto è: c'è una sosia in giro, c'è una sosia di Hillary Clinton. E allora, Oscar naturalmente dice... io ho riso. Dicevo, poi sono andato a paragonare le fotografie. Io invito tutti a farlo. Guardate che sui siti ci sta dicendo o c'ha una truccatrice e un prodotto estetico, oppure, botox immediato, oppure, ma ti assicuro, guarda la mano, c'è una mano levata e guarda le due dita centrali della sua mano, della stessa mano, sono diverse, più tozze prima e dopo, e vedrai che c'è un dito più lungo. Casi. Ma effettivamente sembra un'altra donna. Sembra una sosia. Oscar Giannino ci sta dicendo, pur non essendo un complottista, non ci crede, ma al dubbio. C'è un'equipe medico-estetica miracolosa. Esatto. Perché effettivamente le foto di quando esce da casa, senza servizio segreto intorno, eccetera, eccetera, sembra un'altra signora. Con 15 anni in meno e 10 kg in meno. Ha una sosia Hillary Clinton? Vi lasciamo con questo dubbio. Allora, parliamo di immigrati, di situazioni insomma non certo facili. Fa un po' sorridere, in Italia si parla di situazioni di emergenza, ma da 30 anni siamo in situazione periodicamente di emergenza. Ieri Giovanni Totti, presidente della regione Liguria, e Maroni e Zaia, presidenti di Lombardia e Veneto della Lega, sono incontrati a Genova. Totti, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Con noi c'è anche Matteo Ricci, che è sindaco di Pesaro e anche vicepresidente nazionale del PD e dell'ANCI. Buongiorno Ricci. Buongiorno a tutti. Allora, Totti, voi avete messo a punto 9 punti, magari vederli tutti no, però alcuni ci hanno colpito. Perché lo stato di emergenza, chiedete al primo punto? Dichiarare lo stato di emergenza, perché? Lo stato di emergenza molto semplicemente tanto serve per dichiarare che siamo in uno stato di emergenza, che quindi deve avere un inizio e una fine, come tutti gli stati di emergenza, quindi una localizzazione temporale e la voglia di risolvere un problema, quindi è un'enunciazione di principio. Dopodiché, come è noto, senza la dichiarazione dello stato d'emergenza non si possono usare strutture di protezione civile, cioè io come presidente di regione non posso ad esempio mobilitare la mia protezione civile senza una dichiarazione di stato d'emergenza. Perché lo farebbe se invece ci fosse? Beh, in alcuni casi probabilmente sarebbe più utile poterlo fare che non. A Ventimiglia quest'estate abbiamo vissuto dei momenti in cui probabilmente la protezione civile avrebbe potuto dare un contributo. Così come, se si parla di un alloggio temporaneo, penso utilizzare in alcuni casi campi e moduli abitativi della protezione civile anziché sistemare in modo permanente o semi-permanente, ma al momento mi tocca dire permanente, immigrati in situazioni residenziali pagati dallo Stato, è certamente un sistema più efficace e più efficiente a mio modo di vedere. Quindi lo stato di emergenza consente una serie di procedure amministrative più snelle e consente di far intervenire organi dello Stato, appunto come la protezione civile, situazioni di emergenza, vedi la stazione di Milano, vedi la frontiera, il valico di Como, vedi la frontiera di Ventimiglia, dove per il momento non c'è stato possibile utilizzarli. Ovviamente non risolve totalmente il problema, ma già il fatto che il governo riconosca che c'è un'emergenza significa che servono misure straordinarie per affrontarla, mentre purtroppo sono 2 anni ormai che non si dichiara uno stato d'emergenza, ma viviamo in uno stato d'emergenza neanche strisciante, di fatto, perché stiamo parlando di oltre 100.000 sbarchi in anno. Però, Presidente Totti, la risposta vera potrebbe essere semplicemente, come credo di aver capito dall'incontro che c'è stato tra rappresentanti dei comuni, quindi dei sindaci, il governo la settimana scorsa, è che il governo preferisce cambiare la cooperazione istituzionale rivolgendosi direttamente ai comuni, che sono quelli che poi devono gestire. Ma no, per la verità i comuni vivono con grande disagio, queste non sono. Infatti, sindaci. Perché si tratta di cambiare il sistema per cui i prefetti erano la catena di comando e di trasmissione. Ma non puoi saltare le comunità locali e utilizzare i prefetti senza aprire un confronto con le regioni. Dicevo, il governo sembra dire il nostro interlocutore e vogliamo cambiare la cooperazione sono i comuni, non i presidenti di regione e le regioni. No. Non è così. Il tema è un altro. I comuni utilizzano i prefetti per far pressione sui comuni, che sono quelli che poi gestiscono e devono autorizzare l'accoglienza sul posto, ma è una situazione che i sindaci stanno vivendo sempre con maggior disagio, e non solo i sindaci della nostra parte politica. In questo momento il governo non ha sostanzialmente interlocuzione con gli enti locali, né i comuni né le regioni. Attraverso i prefetti semplicemente ordina o impone, dove riesce, l'alloggio di degli immigrati in posti che trova attraverso l'utilizzo di alloggi e spazi che trova e cooperative che li gestiscono. Vediamo su questo se Ricci risponde già a questa critica, cioè l'imposizione in qualche modo di gestiteli così. Giannino, la conferenza delle regioni ha stabilito una quota per ogni regione alcuni anni fa. Questa quota è stata aggiornata oltre 10 volte senza che si riunisse mai più la conferenza delle regioni né il tavolo sull'immigrazione nazionale, che Renzi è riunito l'ultima volta nel luglio dello scorso anno. Questo dà l'idea, come si dice, del livello di interlocuzione con gli enti locali da parte del governo. Vediamo, Ricci, che risponde a questa accusa del Presidente Totti? Se siamo in emergenza da anni e lo saremo per tanti anni ancora, questo è fuori discussione. Così come fuori discussione che negli ultimi si sono fatti dei passi avanti notevoli nei rapporti tra Ministero dell'Interno e Comuni. Credo che al Presidente Totti non sia sfuggito l'accordo fatto con l'ANCI, dove sostanzialmente il Ministro Alfano recepisce le nostre proposte. I sindaci non vogliono avere imposizioni dall'alto, dai prefetti, soprattutto quando arrivano nei comuni gruppi troppo grandi, comunità troppo piccole. L'accordo che è stato fatto proprio con il Ministro Alfano qualche giorno fa riguarda la distribuzione sul territorio con dei criteri oggettivi legati alla popolazione, ai residenti, che se distribuiti in tutti i comuni italiani possono rendere questa emergenza molto più gestibile rispetto ad oggi, proprio per evitare le concentrazioni che hanno creato tensioni in alcuni comuni italiani. Quindi è una novità molto importante del rapporto tra governo e comuni. Non solo c'è un rapporto, ma soprattutto c'è un accordo di qualche giorno fa, e credo che il Ministro Totti lo conosca. Questa cosa sì, tra l'altro la qualità dell'audio di Ricci è un po' forse da migliorare. Mi hanno detto che in treno veda se riusciamo un po' a migliorare la qualità. Sono in viaggio verso Roma e sono in treno. Vabbè. No, comunque ci dice che questo accordo è stato fatto qualche giorno fa e quindi c'è una maggiore cooperazione anche qui. Cooperazione con gli enti locali c'è, secondo Ricci, secondo Totti invece sono. Ma io vedo grandi sindaci che francamente non hanno nessuna intenzione più di essere costretti a questo genere. L'accoglienza diffusa, signori, non sta funzionando. Non sta funzionando perché purtroppo i numeri sono molto elevati, non sta funzionando perché si cerca di risolvere a valle un problema che andrebbe risolto in monte cercando di non farli partire, non sta funzionando perché tra quelli che arrivano, i profughi e i rifugiati, cioè coloro che hanno diritto a fare la domanda, sono una minor parte, circa il 10%, non sta funzionando perché il sistema di identificazione che ogni tanto si prova a fare ma per lo più non si fa, e quindi abbiamo migliaia di persone non identificate che girano però nel su questo territorio Totti nazionale. Nel campo di Ventimiglia, che io ho visitato qualche giorno fa, i migranti che vi sono ospitati non sono identificati, cioè non sappiamo chi è. Però Totti, scusi, questo era è il secondo punto che voi avete messo nero su bianco, cioè bloccare i flussi degli immigrati alla partenza. Ma non è un po' un mondo utopistico, un mondo che non c'è, che sarebbe bello ci fosse, ma un mondo che non c'è in realtà. È stato fatto durante la primavera araba, anche in situazioni di difficoltà e con governi provvisori. La Libia oggi ha un governo provvisorio con cui si può provare a parlare, quantomeno. Certamente le politiche dei respingimenti sono politiche che fanno molti stati democratici e assolutamente, come si dice, al di sopra di ogni sospetto. Vedi l'Australia, che con l'Indonesia ha una politica di respingimento piuttosto muscolare, diciamo, da questo punto. Ma io dico una cosa abbastanza semplice, signori: se uno arriva negli Stati Uniti senza un titolo per starci, ti prendono per un orecchio e ti rimandano da dove sei venuto. Non stiamo parlando della prima democrazia del mondo, e se ci arriva Giovanni Toti, governatore della Liguria, e arriva senza un titolo di soggiorno all'aeroporto Kennedy, mi ricaricano sull'aereo e mi rimandano da dove sono venuto. Però voglio dire l'aeroporto, che sì, ci siano milioni di clandestini, anche purtroppo anche in America lo dimostra la campagna di Trump, presidente Toti, quindi come si vede non è un problema solo italiano, ma non significa che bisogna rassegnarsi, perché noi non può però parlare non facendo parlare i suoi interlocutori giornalisti dicendo che noi difendiamo i clandestini. Tra un po' arriviamo anche a quello. Io dico se qualcuno è passato. Lei ha fatto il nostro mestiere, sembra che abbia cambiato inopinatamente. Sto scherzando, perché siamo amici. Io voglio bene a tutti i colleghi giornalisti. Ecco, appunto, voglio dire, il problema della fotoidentificazione è un aspetto, è quello tra l'altro che ci rimproverano anche i tedeschi e gli europei. Il punto di fondo è, ci faccia capire una cosa: ipotizziamo per un secondo che al posto dell'attuale ministro Viminale ci sia il presidente della Regione Liguria. Come è vero, lo dicono i dati ufficiali, quello che lei ha detto, c'è una percentuale di coloro che hanno diritto d'asilo in Italia riconosciuto molto bassa sul totale. C'è una percentuale di coloro che avrebbero comunque diritto, secondo la sussidiarietà, ad avere un sostegno, che comunque, sommate le due cose, non arriva al 50%, e ci sono coloro a cui poi viene riconosciuto legalmente. No, voi dovete andarvene, foglio di via. Il foglio di via in Italia significa che resti clandestino in Italia. Fosse lei, ministro, come lo risolve il problema dei respingimenti? Guardi, è abbastanza semplice, bisogna aumentare le capienze dei centri di identificazione ed espulsione. Chi deve lasciare il nostro paese non può andare in giro liberamente per l'Italia, deve essere identificato, bisogna vedere se ci sono i prerequisiti minimi per la sua domanda di accoglienza, altrimenti si va in un centro di identificazione e di espulsione dove si attende di essere rimpatriato. Il Ministero degli Esteri e non il Ministero degli Interni si deve attivare per una serie di rapporti internazionali, usando il peso economico del nostro paese, che nei confronti degli stati africani è molto, pur nella crisi che stiamo attraversando, per negoziare, come è stato fatto nel passato, accordi bilaterali di riammissione, dopodiché si fanno i charter e si rimpatriano. Mentre sul fronte della Libia occorre coinvolgere l'Europa, non aspettare come al solito che arrivino gli alleati americani a risolverci i problemi, e cercare di trovare un accordo con il governo provvisorio e un sostegno anche militare a quel governo provvisorio per installare una serie di campi di identificazione su quella costa, in modo tale che non partano. Che un non accordo con la Marina, con quel che rimane della Marina e della Guardia Costiera Libica, anche fatto oggi abbiamo delle unità navali e molte unità navali che costano molto denaro davanti alle coste della Libia per traghettare da noi persone che cercano di attraversare il Mediterraneo. Semplicemente bisogna fare l'opposto: salvarle e riportarle sulla costa da cui sono partite. Insomma, la ricetta Ricci che replica, perché sembra una ricetta snocciolata e molto semplice, insomma, se applicata da parte del presidente Toti. Lei che dice? Molto semplicistica. Comprendo, diciamo, c'è l'audio che non ci assiste, diciamo, lo dobbiamo recuperare in un'altra situazione, perché Ricci, ci spiace, insomma, in questo dialogo non è per volontà voce, ma proprio la linea sul telefono si vede che le infrastrutture italiane non sono quelle di un paese molto avanzato. Toti, la questione è che rimandiamoli pure in Libia, e sono stati fatti molti reportage di come queste persone poi vengono sfruttate. Io ricordo tutti che un governo in Libia non c'è, anzi dobbiamo mandare Haftar, con i francesi contro di noi, perché noi siamo con Serraj dall'altra parte, perché i francesi hanno gli impianti verso l'Egitto e stanno con l'Egitto, noi ce l'abbiamo dall'altra parte, attualmente sta occupando impianti petroliferi e porti, quindi la situazione della Libia è un po' complicata. Ma poi ci sono tanti racconti, reportage giornalistici di come queste persone poi vengono lì sfruttate, schiavizzate, eccetera. Cioè un po' risolvere il problema buttando la palla di là, che poi non sono esseri umani. È tutta evidenza che le persone, come dire, che attraversano il Mediterraneo, non siamo così cinici, sono persone che al di là del loro status di rifugiato o di profugo, comunque da comunque provengano, sono persone che scappano da una situazione di gravissima emergenza, che sia economica o che sia di guerra, poi le leggi internazionali ti proteggono diversamente. Il tema è che in Libia ci devono essere dei campi d'accoglienza gestiti dalle Nazioni Unite, dall'Alto Commissariato per i Rifugiati. Abbiamo una serie di organismi internazionali che paghiamo fior di soldi, quei soldi dei cittadini, vero. Da tutte le parti, non si capisce che cosa facciano. Dopodiché, se l'Europa vuole ancora essere un continente che dia qualcosa da dire, e se questa Europa si vuole salvare da un disfacimento che sembra dietro l'angolo, deve anche saper mostrare delle ricette al mondo. Allora, la crisi del Nord Africa non può essere demandata né agli Stati Uniti d'America né agli scontri tra piccole potenze regionali come la Francia. Occorre un intervento europeo su quelle coste che magari ci costringa anche a mettere gli scarponi nella sabbia, come qualcuno dice. Occorre fare degli accordi con le milizie locali, c'è un governo provvisorio, anche se i francesi e realmente, come dite voi, ne appoggiano un altro, ma alla fine l'Europa dovrà schierarsi, spero, con il governo più considerato legittimo, se di legittimità possiamo parlare, in quel paese. Dopodiché occorre andare là, dare una mano a queste persone, costruire dei campi dove ci sia un sistema d'accoglienza almeno dignitoso per le persone che scappano dall'Africa subsahariana, e non farle partire. D'altra parte, se non affrontiamo a casa, se non affrontiamo là l'emergenza, ci troviamo a affrontarla a Ventimiglia, in modo, non è che il campo che ho visto a Ventimiglia, per quanto volontari, Croce Rossa e l'abnegazione di tanti bravi italiani che si sono dati da fare a 40 gradi quest'estate, fosse un campo particolarmente dignitoso. Repubblica racconta di questo centro di Foggia dove pare succedano delle cose vergognose. Comunque la ringraziamo, Giovanni Totti, presidente della Regione Liguria. Purtroppo, insomma, il collegamento con Matteo Ricci è stato un po' infelice. Ma lo recupereremo. Andiamo avanti dopo il cielo delle 9. Parliamo allora di questo caso di Melito Portosalvo, ragazzina violentata per 3 anni, un po' nell'omertà di tutti, anche dei familiari. Dei maschi e delle donne vittime. Tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Tra le novità in arrivo sulle pensioni, la più attesa è certamente quella che va sotto il nome di APE, anticipo pensionistico. Proviamo a capire che cos'è e come funzionerà questo meccanismo, grazie al quale i lavoratori di tutte le categorie potranno lasciare il lavoro fino a 3 anni e 7 mesi prima dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. Quindi l'anno prossimo chi avrà almeno 63 anni di età potrà smettere di lavorare. Invece di ricevere la pensione, otterrà però un prestito equivalente all'importo della pensione, prestito che dovrà però essere restituito negli anni futuri. Questo è un punto delicato e ieri, durante l'incontro governo-sindacati, si è capito che solo in alcuni casi limitati l'uscita anticipata avrà un costo pari a zero. Solo disoccupati di lungo corso, solo disabili, soggetti impegnati in attività usuranti non dovranno restituire il prestito, ma in tutti gli altri casi, cioè quando il lavoratore anticipa la pensione per scelta personale, i costi potrebbero raggiungere il 5-6% all'anno, quindi il 15-18% su base triennale. Quindi prendo l'anticipo per 3 anni, ma poi la mia pensione viene ridotta perché devo restituire questo importo. È un'operazione coerente sotto il profilo dei conti pubblici, perché non viene intaccata la struttura della riforma Fornero e i risparmi collegati alla riforma. Si tratta ora di capire se sarà anche un'operazione efficace, perché il meccanismo della restituzione dell'anticipo in molti casi potrebbe essere troppo oneroso per i lavoratori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 9:04 e siamo sempre in diretta, caro Oscar. Siamo tornati in diretta, cari ascoltatori, nella pausa. Sì, stava cercando di convincermi in tutti i modi e c'è riuscito. E c'è riuscito che Hillary Clinton... Alcune fotografie hanno messo in crisi anche il nostro Alino. No, io ci metto poco a convincermi sui complotti, però mi ha fatto vedere delle foto di Hillary Clinton e delle sue presunte, perché sono pari di più, sosia. Ci sono delle singolari circostanze che, a distanza di poche ore, effettivamente o ha un kit portatile di estetico, io trucco, da farla sembrare un'altra. E poi soprattutto ci sono alcune fotografie in cui la circonferenza di vita cambia improvvisamente in due ore, un po' difficile. Però perché Oscar dice che sono io che mi sono convinto, ma è lui che sta facendo quest'opera di convincimento, quindi il più convinto è lui del fatto che io non credo che possano essere così matti da avere i soci ad Hillary, perché è finita la carriera, però che ne possiamo sapere? Non verranno mai intervistati qualora ci fossero le sosie di Hillary Clinton. Scusate, i sosie ci sono di solito per gli autocrati. C'è Stalin, aveva i sosia, Mao, cioè quelli di regime, i sovietici, i comunisti. In questo caso, ma che sarebbe... il clan Clinton si crede già a quel livello. Ma in questo caso è per seguire la questione delle possibili evoluzioni della sua salute. Ma no, perché in questo caso sarebbe l'ulteriore conferma che vivono in una doppia sfera di segreto, riservatezza. Già ha cestinato centinaia e centinaia di mail dal server del Dipartimento di Stato. Adesso se manda in giro anche la sosia, proprio va bene. Insomma, capite che siamo su questa. Comunque, caro Oscar, io non ci credo, caro. Siamo ossessionati da questa cosa. Ecco, siamo ossessionati da questo, dall'idea di come la politica è sfuggente. Ma anche vi in America, non solo qua. Vi assicuro che continueremo a discutere animatamente al bar davanti a un caffè. Però in questo momento, caro Oscar, come abbiamo annunciato già alle 8:15, dobbiamo approfondire questa storia molto molto dolorosa, con sfaccettature diverse, con implicazioni diverse, che è stata raccontata dai giornali in maniera molto sintetica così. C'è un paese a Melito di Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria, dove è successo che una ragazzina dai 13 ai 16 anni è stata violentata da un gruppo di compaesani, un po' nell'omertà di alcuni, anche si è scoperto dei familiari, nello specifico la madre, che aveva scoperto attraverso il tema di questa ragazzina che stava succedendo qualcosa, ma pare per vergogna o non si capisce perché, è stata nel silenzio. Allora, abbiamo tre ospiti, con noi c'è il sindaco intanto di Melito di Porto Salvo, Giuseppe Meduri. Grazie sindaco, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. C'è il coordinatore regionale di Libera Calabria, Mimmo Nasone, avete organizzato una fiaccolata lì a Melito, buongiorno. Sì, ma non sono coordinatore regionale, sono della segreteria nazionale di Libera, perfetto. E abbiamo un avvocato, l'avvocato Giulia Bongiorno, che torna con noi, ben ritrovata, molto, grazie per l'invito, molto attenta a queste dinamiche e non solo. Intanto sindaco, qualche articolo mette anche il paese nel mirino, nelle accuse, ovviamente lei, il suo ruolo è quello di dire che non è così e siamo sicuri che tutto il paese non sia così, però questa vicenda è una vicenda straziante che coinvolge direttamente anche lei come primo cittadino. Diciamo che precisiamo, la prima cosa a cui ci tengo è salvaguardare in tutti i modi, con qualsiasi mezzo, la ragazzina, la persona che è stata coinvolta in questa vicenda, che è la vicenda più triste in assoluto della storia del paese che mi onoro di guidare da 15 mesi. Che fare, che dire? Beh, io ho chiesto aiuto, lo rifaccio, chiedo aiuto a tutti voi nel fare quanto possibile per aiutare in qualsiasi modo la famiglia, questa ragazza, aiutare anche il paese che amministro, perché purtroppo in questi 15 mesi diciamo non è solo caso, abbiamo avuto anche un altro caso abbastanza, diciamo, increscioso, la mamma, la figlia che ammazza la mamma, gli spara in testa. Quindi tutto pensavo, tranne che dovermi imbattere in situazioni così irreali, così inimmaginarie, diciamo, nel peggiore scenario non potevo mai pensare, anche in un sogno, non potevo mai pensare di scontrarmi con questa terribile realtà. Il paese chiaramente c'è una parte, c'è stato, ci sarà, speriamo in futuro meno di omertà, ma il paese tre volte sciolto per mafia come amministrazione, dall'84 a oggi, e purtroppo dobbiamo dire che c'è questo record negativo, però mi sento di dire che noi abbiamo acceso la speranza e... Sindaco, posso fare solo un'osservazione? L'osservazione è che, diciamo, per la nostra esperienza di mestiere come giornalisti, tutte le volte che avvengono cose di questo tipo, cioè di violenze sessuali a danno di ragazze o di bambini, Sì. La reazione con cui noi ci incrociamo da chi rappresenta l'istituzione è quella classica standard, cioè difendere il buon nome del paese, dire che sì, c'è un fenomeno ma non riguarda il paese. No, aspetta, no, mi faccia dire prima di obiettare, perché anche questo fa parte, l'obiezione immediata del sindaco. Ascoltare. No, non è saper ascoltarvi, io lo capisco che lei ha un compito, oltretutto lei è stato eletto da poco, ce l'ha spiegato così via, però la domanda che faccio a lei ed è la stessa che farò poi senza replicarla agli altri nostri due ospiti, sì, e a Giulia Buongiorno, che è donna di legge ed è donna oltretutto, è questa: quando secondo lei capiamo che di fronte a fenomeni come questi, che identificano evidenti meccanismi in cui convergono comportamenti diffusi, se un poliziotto consiglia quello che ha consigliato al fratello, terribile, ma sarà terribile, però è questo. Allora, se c'è chi tace al di là dell'andrangheta, di cui c'è anche questo, la presenza nella vicenda e così via, sì, se la scuola si volta dall'altra parte, perché se la chiesa, la madre, la chiesa, esatto, vuol dire che come nel famoso condominio all'interno napoletano in cui la cosa avveniva e, come si capisce dalle indagini, moltissimi sapevano ma tutti tacevano, vuol dire che ci sono aree del paese molto più estese di quanto siamo disposti ad ammettere anche di fronte a fatti conclamati, in cui le donne, io metto anche la madre tra le vittime, che sta zitta perché ha paura, perché anche lei è la prima vittima, oltre alla figlia straziata. Le madri, le figlie, i bambini vengono ancora considerati oggetti inanimati di violenza sessuale. Io parlo in maniera brutale, signor sindaco, non perché penso che i cittadini suoi al 90%, l'80% la pensino così. Dico solo che le istituzioni, forse mi sbaglio, e se mi sbaglio mi dica perché, o affrontano queste cose in queste aree di fronte a queste vicende parlando un linguaggio che irriterà molti dei suoi concittadini. Perché? Perché sferzerà il loro silenzio. Il silenzio di fronte al fatto che in Italia viviamo, ancora in alcune parti d'Italia, lo dicono i dati ufficiali, situazioni di incesto estesamente praticato e tollerato. Quindi queste robe sono nella testa dei maschi italiani, e questa cultura, vogliamo dire che è finita in Italia? Ecco, ho finito, magari mi sbaglio, mi dica lei in che cosa. No, allora, io ho detto sin dall'inizio, ho cercato aiuto per questa situazione che, diciamo, orribile, tragedia nella tragedia, perché coinvolge tantissime famiglie. Qua a mio giudizio, lo dico, l'ho già detto, mi ripeto, è venuta meno la famiglia, è venuta meno la chiesa, è venuta meno la politica, è venuta meno la società civile, le associazioni sportive, le varie associazioni in genere. Io mi sento corresponsabile come genitore, come credente, come politico, sono il sindaco del paese. La percentuale di irresponsabilità o di corresponsabilità ce la possiamo giocare, chi più chi meno, tutti siamo corresponsabili. Nessuno può alzare il dito e dire io non c'entro. Il paese non è una grande città, però è un bel paese, da delle belle realtà, ci stanno tanti giovani che emergono, però purtroppo ci dobbiamo scontrare con questo. Io quando dico che il paese è omertoso, è chiaro che lo è quando succede, se vi ricordate la vicenda del bambino che durante la recita di fine anno prende quel proiettile in testa, nessuno vede, nessuno sente, sì. E dico, è assurdo, però sono passati 4-5 anni forse da quella vicenda, dalla vicenda che la ragazzina spara alla mamma con un colpo di pistola in testa, ci ritroviamo con questa violenza di gruppo e continuiamo a, purtroppo, con l'augurio, la speranza che non succedano altre cose. Che fare? Io la prima cosa che ho fatto, ma non perché mi devo giustificare assolutamente, non ho nulla di che giustificarmi, ho alzato il dito, che è stato dal primo momento, sì. Mi sono affidato una riflessione per un messaggio di speranza, per un'iniezione di fiducia al procuratore capo, che ringrazio per la sua disponibilità, ma non poteva essere diversamente. Ho richiesto anche la stessa richiesta, l'ho fatto al prefetto e al vescovo, insomma, l'aiuto. No, ma questo è chiaro, l'aiuto, sindaco, non però come messaggio di speranza, ma sa chiaro. Perché le chiedo scusa, sa perché il messaggio del sindaco il sindaco che qualcuno pensa che non è finita la campagna elettorale, che domani si possa votare, c'è molta credine nei confronti della componente politica, quindi vabbè, qualsiasi cosa dice l'orecchio lo percepisce già. Ma no, ma sindaco, allora si fermi qui, che così ascoltiamo anche Nasone, l'avvocato, buongiorno. La politica lasciamola fuori, non vogliamo entrare nel contesto poi locale delle politiche. Vorrei intanto capire da Nasone come è la percezione, visto che questa fiaccolata libera organizzata, come è stata la percezione di come il paese abbia vissuto questa vicenda, stia vivendo questa vicenda, Nasone? Ma è un fatto di estremo dolore, di estremo dolore. Io vorrei entrare subito, come dire, nel cuore del problema. Intanto, se tutti siamo responsabili, il rischio è che nessuno è responsabile. Come quando diciamo che tutto è mafia e niente è mafia. C'è una responsabilità, certamente, della comunità, ma c'è, non dimentichiamo, una responsabilità di chi ha perpetrato il delitto, di chi per anni ha abusato di una ragazzina. E ci sono 9 persone in carcere, non lo dimentichiamo, 9 che hanno un nome e un cognome. Oh, certo, chiaro. Uno di questi, il capo Branca, appartiene al è figlio del cosiddetto capo mafia. Quindi attenzione a dire che siamo tutti responsabili. C'è una responsabilità di questi 9 soggetti criminali, violenti. La prima responsabilità è loro. Poi anche, ovviamente, in un contesto comunitario dove queste persone hanno vissuto e vivono, ci sia certamente la responsabilità di una crisi dell'educazione, una crisi di valore, di una crisi. Poi possiamo dire tutto quello che vogliamo, sì, però le scelte sono personali. Le scelte sono personali. Dopodiché, chiarito questo, proprio per dire, non diciamo che siamo tutti responsabili, no, c'è una responsabilità di quelle 9 persone che sono state come messe in carcere per questo gravissimo reato. La seconda cosa che vorrei precisare, quando noi abbiamo organizzato l'iniziativa, era proprio perché riteniamo nella comunità di merito la maggior parte delle persone è in buona fede e sono cittadini che vivono, io dico, in una sorta di libertà condizionata, nel senso che c'è un predominio asfissiante della 'ndrangheta. Io ricordo 2 anni fa, in un incontro locale, una ragazza abbastanza formata di un'associazione locale disse: a merito respiro mafia, da dove mi giro e mi volto respiro mafia. Sarà un'esagerazione, ma è un clima che si respira anche. C'è un condizionamento totale, assolutamente, e l'ha detto anche il sindaco, un comune sciolto 3 volte per 'ndrangheta, per infiltrazione mafiosa, la dice lunga, cioè, questa non è una cosa normale. Ma infatti, aspetti, no, ce la dica tra un attimo, che così vogliamo coinvolgere anche l'avvocato Buongiorno. Su questo, non so se l'avvocato Buongiorno è d'accordo quando Oscar Giannino prima diceva che in qualche modo anche la madre è vittima di una situazione, perché certo leggere "la madre sapeva e non ha denunciato" è facile puntare il dito, ma la madre è vittima di questa situazione. A corollario, ricito quello che la stampa oggi cita, e cioè Linda Laura Sabadini: 2.284.000 ragazzine sotto i 16 anni hanno subito una qualche tipo di violenza. E mi dispiace, non è che c'era 'ndrangheta. No, esatto. 'Ndrangheta è un elemento di contesto che spiega in alcuni casi. Però non pare che quello che avviene sulle violenze, gli incesti, eccetera, eccetera, sia solo perché c'è il problema del controllo territoriale della malavita, che non sottovaluto, però di fronte a questi numeri che ci dà l'Istat, o riconosciamo che c'è un problema italiano nella testa dei maschi italiani, oppure non ne usciamo. Non è che possiamo dire lo risolviamo con le leggi speciali contro la mafia. Avvocato, che dice? Allora, qui abbiamo 2 aspetti da analizzare. Quello che abbiamo analizzato finora, e cioè che molti hanno taciuto, ma anche quello che è avvenuto dopo, e cioè una sorta di sottile solidarietà nei confronti di coloro che sono indagati, per cui nessuno dice ovviamente che sono condannati, ma che sono i presunti responsabili. E quindi è un duplice aspetto: non solo per 3 anni nessuno ha denunziato, ma persino quando il fenomeno è emerso non abbiamo visto dita puntate, non abbiamo visto una condanna unanime. Da cosa deriva questo? Io sono, insomma, come è noto, sono nata a Palermo, ho vissuto 30 anni a Palermo, quindi lo dico da persona del Sud. La mafia, come la 'ndrangheta, tutte le associazioni di stampo mafioso, le cosiddette mafie, hanno dentro la loro associazione una sorta di mentalità marcatamente maschilista. Marcatamente maschilista. Ciò non significa che poi al nord non c'è il maschilismo. In questo caso abbiamo un abbraccio tra quello che è il maschilismo, che purtroppo esiste in Italia ed esiste persino al confine con la Svizzera, intendo dire ovunque, ma un maschilismo che comunque si sposa con le mafie, che quindi crea una sorta di terrore, perché il maschilismo puro è il maschilismo che fa sì che l'uomo si sente superiore. In questo caso abbiamo non solo gli uomini che si sentono superiori, ma una sorta di paura a denunziare i fatti, perché oltre al fatto che c'è una sorta di solidarietà e quasi di simpatia nei confronti dell'uomo, che quindi può fare quello che vuole, mentre una concezione della donna come essere inferiore, che comunque, come vedete, è stata denunziata, io ho visto molti articoli in cui si diceva era comunque una ragazza fragile, chissà in questo aggettivo fragile cosa si voleva dire. C'è sentito anche qualcuno, una ragazza diceva, movimentata, qualcuno che diceva se l'è andata a cercare, in parole povere, la solita storia. Ecco, allora io vorrei dire da donna, la madre è vittima, sì, ma non la giustifico, no, perché certo. Per quanto sei vittima, per quanto stai soffrendo, devi avere la forza di portare tua figlia via e di denunziare. Due, la ragazza invece è l'unica vera vittima, l'unica. E non voglio sentire attenuanti nei confronti di chi ha compiuto questo gesto dicendo che la ragazza era di facili costumi o quasi che diventi una prostituta. Stiamo attenti anche a come si gestisce il posto di questa vicenda. È grave quello che è accaduto, ma se gestiamo male questa fase successiva non combattiamo né il maschilismo né la mafia. Non so, Nasone, cos'è che aveva come ultimo punto o come terzo punto che voleva mettere in rilievo? Chi ha parlato dopo di me. Volevo proprio evidenziare questo, la cosa gravissima del giorno dopo, di questo sottobosco culturale che quasi quasi è andato a giustificare i violentatori. Perché, e noi abbiamo perché delle, c'è, abbiamo la, lo, lo avete certo colto? Lo avete colto. Lo cogliamo in generale, anche perché abbiamo dei precedenti, purtroppo ahimè, abbastanza recenti, quasi 1999, la storia di un'altra ragazza, oggi in protezione con tutta la famiglia, a San Martino di Taurianova, un paese vicino Melito, nella piana di Gioia Tauro, una ragazzina, una Maria Scarfò, sempre di 13 anni, da un branco, anche lì, sotto bosco culturale, maschilismo, tutte le cose dette, ma anche coinvolti dai mafiosi, che hanno violentato per 6 anni questa ragazza. Ma la cosa più grave è che sono stati abbandonati tutti, solo le forze dell'ordine, lo Stato in un primo momento hanno accolto il grido d'aiuto di questa ragazzina. Il paese, la comunità, tutti hanno condannato a morte, posso dire, moralmente, civilmente, psicologicamente, Anna Maria. E quando noi abbiamo completato la sera della manifestazione di venerdì scorso con un migliaio di persone, tra cui molti sindaci, e non è vero che c'erano 4 gatti, c'erano poca persona di merito, un terzo, un quarto, ma ce ne potevano essere di più sicuramente. Ma quando abbiamo concluso, abbiamo detto: questo lo facciamo perché abbiamo imparato dalla storia che adesso cercheranno di delegittimare la ragazza e i suoi familiari. E lo stanno facendo. Infatti noi abbiamo messo in cantiere, già da domani sera ci incontreremo per avviare delle iniziative concrete di controinformazione, di una presenza militante attiva come Libera, per evitare che passino le bugie, perché questi sono i regali che si fanno ma alle persone. Capisce che quello che lei dice, ha sentito, sindaco Meduri, cioè non è questione, noi non vogliamo puntare il dito, noi cogliamo la sua difficoltà, il suo imbarazzo, lei lo ha anche manifestato, sì, in varie interviste. Posso fare una precisazione? Certo. Allora, qua ha ragione l'avvocato quando dice attenzione a come gestiamo, io dico a come affrontiamo, a come condividiamo, a come usiamo qualsiasi espressione, qualsiasi parola in questa vicenda, altrimenti non se ne esce fuori. Dare dei numeri di quante persone hanno partecipato alla fiaccolata, Nasone dice un terzo, un quarto, non è così, perché un terzo, un quarto Melito fa 12.000, 14.000 anime, un terzo, un quarto non c'era, né un terzo né un quarto. L'importante è che c'era una parte della gente, la parte che si è sentita, perché io non voglio assolutamente giustificare il parroco che non si è fatto intervistare, dico, ha sbagliato secondo me, ma rispettiamo la sua volontà. Ma lei non avrebbe voluto 8.000 persone tutte di merito, 10.000 in piazza? Io avrei voluto tutto il paese, nessuno escluso. Dico, nel momento in cui Libera ci ha proposto questa fiaccolata, noi l'abbiamo detto, abbiamo detto che la facciamo nostra e la facciamo assieme, tant'è vero che abbiamo fatto conferenza stampa, ho fatto personalmente tantissimi inviti. Poi chiaramente non è che li puoi tirare con la corda, dico obbligare, io non punto mai, sono uno che ama vivere in libertà e lascia libertà di pensiero e di parola. Puoi non condividere ma rispetti, io non condivido molto. Posso dire che quando fai un comunicato stampa e la stampa non lo riporta, vabbè, chiaramente ne sei risentito, lo dici, e avrei personalmente gradito che questa vicenda fosse stata raccontata in maniera diversa, senza scendere nei particolari, perché si è fatto tanto male, tanto male soprattutto a chi è vittima, che è la ragazzina, che è l'unica, vittima sicuramente. Poi ci sono le altre famiglie che vivono nel dramma, perché risucchiate, perché coinvolte. Ma quale? Perché quale delle persone arrestate? Sto parlando in generale, nel senso, sì, anche le persone arrestate, perché trovarsi con un dramma totalmente diverso, loro l'hanno creato, coloro, quando, cioè, perché le famiglie, Signor sindaco, è una cosa diversa. Signor sindaco, lei ha iniziato dicendo che il parroco, vabbè, l'ha detto, ma bisogna capirlo, che poi le famiglie degli arrestati, insomma, vivono un dramma. E con questo criterio, se mi metto nei panni di un giornalista che dovrebbe descrivere, tenendo conto di tutto quello che mi ha detto fino a questo momento, direi arrestate 9 persone, punto, si indaga, sì. Punto. Come si fa? Cioè, io il parroco, per esempio, il prete, mi spiace, lei dice bisogna capire, io non lo capisco. Non si capisce. E ai miei occhi è l'abominio di chi, rispetto alla missione che gli ha fatto abbracciare il sacerdozio. Mi dispiace, gli parlo in termini brutali perché la penso così. Abbiamo un minuto, avvocato, buongiorno. Ci può rassicurare il fatto, perché molti hanno dei dubbi, che denunciare serve sempre comunque, perché sa, è un punto anche soprattutto su tanti casi di cronaca di violenze nei confronti delle donne, in cui molti dicono ma denunciare, poi dopo c'è l'abbandono da parte delle istituzioni. Allora, è essenziale denunziare, su questo io voglio non solo essere chiara, ma essere categorica. Non esiste una situazione in cui si subisce una violenza che si esaurisca da sola senza la denunzia. È chiaro che non è facile denunziare, oltre che la denunzia da fare ai tribunali, alle procure, con gli avvocati, io consiglio sempre di avvalersi di personale specializzato che gratuitamente opera in tutti i territori. Ci sono una serie di associazioni in cui ci sono uomini e donne, con psicologi, con persone che lo fanno proprio a livello di solidarietà. Ecco, quindi non dovete né tacere né pensare, ma se vado in procura ora ci vogliono 2 anni prima che prendano in carico la denuncia. Allora ok, andate subito a un'associazione. Bravo. Ci sono decine di associazioni. Grazie avvocato, buongiorno. Insieme a lei ovviamente al sindaco di Merito e a Mimmo Nasone di Libera. Che storia così, Oscar, eh? Una storia dolorosa. Queste sono le storie più complicate da spiegare ai propri figli. Io credo nel fatto che bisogna farlo fin da quando sono piccoli. Pensa un po'. Allora ci troviamo domani, dai, grazie a Peter Bescapè in regia e a Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi in redazione. Ci ritroviamo, domani. Ciao a tutti.